This program is proudly brought to you by Spectrum Records. Buongiorno ragazzi, siamo in viaggio verso Torino a trovare il nostro compagno Vitolo, lo stiamo andando a trovare perché risiede nel carcere Le Vallette di Torino. Stiamo andando a portargli un regalo, siamo ormai a 50 km. Vitolo ha avuto dei grossi problemi di disguidi a livello mentale, lo vogliamo trovare per allietargli un po' la giornata. Siamo qua in compagnia con Antonio Lupolo e Michele Calcazzi dietro, che è il nostro produttore che ci consente di avere la frequenza free anche in macchina. Siamo con la Lancia Musa del 1982 e speriamo che sia la nostra DeLorean. Speriamo che ci teletrasporti. Come mi piace andare a fare dei giri nei carceri, ragazzi. Per me è come andare un po' in gita a scuola. Vi ricordate quando andavate a scuola? Tutti eccitati per la partenza del pullman con le maestre. Facevate del casino dietro. Ma per noi è la stessa cosa. Ci siamo trovati alle 7 del mattino sotto casa di Antonio. È arrivato Calcanazzi con l'aiuto regia e siamo partiti. Siamo stipati in questa Lancia Musa. Ci stiamo divertendo come dall'81, che non ci divertiva dai mondiali di Flocker, del gioco dei Flocker. Stasera portiamo un regalino al nostro amico Vitolo. Pensavamo di rubare dei paccheri all'autogrill e portarglieli a cucinare insieme agli altri compagni. Chi sta in isolamento ha bisogno di mangiare la pasta, si sente meno isolato. Penso che Torino, per quanto riguarda le carceri, sia comunque una dimensione più umana rispetto ai carceri dell'Emilia Romagna, dove si stringe meno fratellanza fra i carcerati. Quindi se stai a Ravenna o a Parma è più dura. A Torino me l'hanno sempre spacciata come... non ci sono mai stato, onestamente, quindi anche per me sarà la prima volta. Dovrò condurre l'emittenza free direttamente dalle Vallette. Antonio alla guida, abbiamo fatto come negli anni 80, non abbiamo fatto benzina, abbiamo messo l'olio di semi nel motore, così si risparmia e si va anche naturalmente, si fa un favore all'ambiente, alla natura, come ci ha insegnato il nostro maestro Perkendale. Non ci vogliamo sprecare, non vogliamo buttare del carbone in mezzo alla... Credo che l'olio sia giusto tenere l'olio. Nuova classica mobile, chiama il call center 199, numero del cellulare demoniaco 199. Compra il cellulare solo da Media World nel mondo e le tue mani della galassia poco. Con il cellulare vai al cocco col cellulare, fai il cocco di mamma col cellulare. Sono il tuo cocco di mamma, tu sei su cazzo. Sert Pede, via Beroaldo 12, l'unica catena di Sert dove è possibile pernottare per 4 settimane. Avrete assistenza gratuita per tutti i vostri bisogni, urine gratuite, test e tanto altro. Sert Pede in via Bero Alto 12, dove anche la doccia è gratuita, potete soggiornare in brande in ferro battuto. Mi raccomando. Vitolo, per raccontarvi un attimo la sua storia, lui ha avuto sempre una grande passione artistica. Lui piaceva collezionare le falene e ha una teca piena di falene, ne ha collezionate più di 2000 all'anno. È il 12° anno che colleziona delle, solo che riempiva tutta la sua teca, tutte le sue collezioni. Le riempiva di droghe, quindi gli hanno dato proprio un concorso in combutta con la mala ed è finito a Torino, ormai da un po' che è lì. E niente, quindi andremo da Vitolo sperando che ci possa dare, possa allietare la vostra giornata in compagnia di Baby Radio. Porteremo quindi la nostra emittente anche nelle carceri, all'interno delle carceri. Torino era una città molto attiva negli anni 90 per quanto riguarda il giro droga, per quanto riguarda locali notturni, anche una massiccia distribuzione di compagni nei centri sociali. Si occupavano molti posti, ma come in tutta Italia nei primi anni 90. Adesso è andato un po' in disuso, quindi è sempre più difficile trovare raccordi di persone e sicuramente non c'è più quell'empatia che c'era negli anni 90. Ora la gente è più chiusa in casa, c'è più proibizionismo, più telecamere, sicuramente più sorveglianza. L'estate è finita, l'autunno è arrivato, quindi a noi non ci costa niente andare ad allietare la giornata di chi sta, di chi sta messo un pochino peggio. Non che noi ci stiamo al top, Quindi volevo ringraziare anche Antonio Lupolo che ha condotto al posto mio l'estate una puntata di Baby Radio, quindi finalmente avete scoperto la sua voce e il suo modo di intendere, il suo modo di vivere. Una vita di merda, la mia vita di merda, tutti i giorni a fumare e a bere, a fare niente, tu non sai vivere questo. Babyradio.es presenta? Sono stato operaia e ho iniziato a bucarmi all'età di 19 anni. A sing a song, sono Bon Jovi e ascolto Baby Radio. Thank you. anche due figli. Uno è a Borgo Tossignana e adesso non so bene cosa faccia. L'altro è morto qualche mese fa, quindi ho avuto questa purtroppo brutta notizia dall'ex compagna. Ex compagna inteso di prole, Mafalda. Abitava in via Genova a Bologna e mi ricordo quando negli anni 70 c'era l'amore libero, loro si sono conosciuti così, facendo del sesso tantrico, cosa che è andata in disuso. Adesso cercano di spingerti verso la psicanalisi con tutte queste stronzate, no? Quindi non c'è più l'approccio free che c'era una volta, no? Non è che si stava, che eravamo pazzi, c'era un approccio diverso proprio alla vita quotidiana. Adesso le chiamano le orge, una volta era amore condiviso, adesso cercano di controllarti e niente. Quindi purtroppo io saluto anche Vito, dopo lo faremo parlare. Abbiamo altri 50 km da passare insieme sulla frequenza free, quindi vuol dire almeno una cinquantina di emissioni libere, come la CO2, che però noi non consumiamo grazie all'olio di semi orogel che stiamo usando nella musa. Vi racconto un aneddoto. Come ho scoperto l'utilizzo dell'olio come combustibile? L'ho scoperto perché stavo portando dei pacchi viveri ai compagni di Napoli. E una volta con la mia Dedra, l'ultimo modello, quello bianco GT1 si chiamava, se non ricordo male, vi parlo ormai di fine anni 70, e io ho sempre avuto il brutto vizio di non riempire mai la macchina di carburante. Cioè, se potevo tenere 60 euro, una volta erano 60.000 lire, io ne riempivo 15. Se ne potevo tenere 15 perché mi hanno dimezzato il serbatoio, me ne hanno staccato una parte, io ne mettevo 5. Quindi per arrivare a Napoli, io ho delle origini anche partenopee, quindi ci vado sempre volentieri a Napoli, ero rimasto senza benzina e portando sti pacchi viveri ero da solo in macchina. Mi si è fermato in autostrada, e le autostrade una volta non sono come adesso, era piena di buchi, di sterrato c'era in autostrada. Adesso lo sterrato lo vedi forse quando fai la Paris-Dakar, non lo so, però avevo l'olio cuore che c'è ancora, faceva la pubblicità Gigi Sabani, non so se vi ricordate, che saltava lo stecciato staccionata. E ho riempito la e sapevo questa diceria. Io non sono un grande patito di auto, quindi no, non ne capisco molto di carburatori, iniezione. Ho messo semplicemente nella macchina tutto l'olio che era destinato a Napoli, l'ho infilato in macchina. E vi assicuro che non solo sono arrivato a Napoli, ma potevo andare diretto nel Vesuvio. Avevo tantissimi chilometri ancora da fare e da lì io non ho mai più pagato un cazzo di benzina. Ho speso tanto per l'olio cuore, però, e da qua c'è da farsi una domanda: costa più il petrolio o l'olio? Tanto alla fine la parola è la stessa, basta che ci metti una petro davanti. E mia madre preoccupata che mi dice dai riposa. Non hai potuto. Baby Radio. Once you go baby, you never go back. Baby. Buonasera ragazzi. Patrizio, l'hai sentita quella brutta storia lì del messaggio fra via Melbeloro e via Acri? Dai, quegli stronzi di condomini che hanno lasciato il cartello ai compagni eroinomani e cracasi, e che gli dicevano di farsi più là perché ci sono i bambini. E cosa mi dici, cosa ne pensi te? A noi non ce ne fotte un cazzo se i bambini devono giocare in strada. Chi ci pensa a noi? Chi pensa alla nostra compagnia? Nessuno. Non è possibile. Una volta avevamo più spazi, adesso uno si può fare in santa pace neanche in strada che affiggono i cartelli. Non c'è la gentilezza. Io ho la bandiera per la tossicodipendenza. Leave me alone, alone, alone. Per la liberazione dei lavoratori, primo maggio a Crocchie, vicino a Roma. Posizione numero 10, troviamo la GoPro. Un gruppo. Un gruppo indie camera. Al numero 9 troviamo Exorcismo, un gruppo metal. Il gruppo numero 8 sono i Factotum, anche loro un gruppo tra il metal e il punk rock. Al gruppo numero 7 gli hanno fatto fare il pomeriggio, però ci sono i figli dei Red Hot Chili Peppers. Al numero 6, all'orario aperitivo, hanno suonato la banda Bassotti. Al numero 5, dopo le 8, la banda Bardò. Gruppo numero 4 ha suonato Filmography, che è un documentario sui gruppi del primo maggio delle precedenti edizioni. Alla posizione numero 3 hanno suonato il Nonzo e DJ Scalo, direttamente da Rovigo, penso venisse. Alla posizione numero 2, intorno a mezzanotte, ha suonato DJ Rachele, una ragazza che è stata violentata dal padre tossicomane. Posizione numero 1, e qua veramente ha fatto l'after la mattina, io lo conosco personalmente, anche lui è un DJ che viene da Ustica, si chiama Siculi, DJ Siculi, e suona musica rafting. cari compagni di merende, siamo sintonizzati sul 106.g dalle frequenze radio free, baby radio. Faremo partire un intervento, è da un po' che non parla qua con noi Stefano Cipolla, che ci dirà, si occuperà di sempre di movimento, quindi noi stiamo andando a Torino, alla Valletta, e lui ci dirà qualcosa sulla sua nuova rubrica Io il Movimento, che può essere, diciamo, inteso Io il Movimento con un doppio significato. Vai Stefano. Sì, grazie DJ Patrizio. Ora vi parlo di... innanzitutto buongiorno, sono il vostro fai da te Stefano Cipolla. Vi parlerò su come macchina provare a fregare i telepass, come fingere d'avere di non pagare un cazzo se non tengo il biglietto, passo uguale dal telepass. Molto semplice. Una volta si usavano i CD che riflettevano e aprivano la sbarra del telepass, adesso non c'è più bisogno del CD. Sfruttiamo l'energia del vento. Energia, produzione eolica per passare dai telepass quando c'è brutto tempo che tira aria, grazie all'energia, è come fotovoltaico. Voi mettete sul manubrio del volante la carta stagnola e vedrete che l'energia che sfrutta il vento per i raggi del sole mischiata alla forza motrice del vento faranno aprire la sbarra, però deve rinfrangere sulla stagnola, un manubrio tutto ricoperto di stagnola, come fosse un pack nel domo, pack la busta della cookie, la macchina deve diventare un pollo gigante e vedrete che magicamente la sbarra si apre e voi passate senza pagare un cazzo, fate tratte di tutta Italia. Io sono arrivato a Teramo di telepass eolico, quindi volevo brevettare questa nuova invenzione, un telepass eolico, carta stagnola che fa aprire le sbarre. Sempre parlando di movimento, cosa che ci sta a cuore, sempre per non inquinare, sfruttare appunto questo fotovoltaico per casa. Ora, il problema principale è che le lamentele quando vado dai clienti che il fotovoltaico costa assai, quindi se lo possono permettere solo gli impianti sciistici, le piscine, i grand hotel, o gente o giovani sui 30-35 anni che fanno i freelancer, che comprano tutte queste nuove energie, ma perché va di moda, no? Perché in realtà risparmio. Che cazzo risparmio? Devo prendermi un impianto da 50.000 euro e in quanto la faccio 50.000 euro? In 55 anni forse, almeno con quello che consumo io non pago la bolletta e ci credo, non consumo un cazzo. Ti staccano il gas e spendo 60 euro per farla funzionare, perché mi devo comprare un sistema di energia che mi costa più che la casa? Il problema è morto alla radice, come si dice, no? Quindi, come fregare i fotovoltaici? Molto semplice. Voi avete presente le pentole, quelle d'acciaio inox? Se voi coprite il vostro giardino di pentole, quindi deve essere una cosa come le gallerie, la batteria, le installazioni, voi fate, praticamente non si deve più vedere l'erba, solo metallo. Tutto il giardino luccica di metallo, di pentole. Voi sapete che le pentole sono sensibili al calore, quindi col calore vengono deformate e trattengono tutta l'energia solare. Scusa Stefano, mi dici che ti importa dell'ambiente e poi lanci il pattume dalla macchina? Non è patto, vabbè, ma che c'entra? Non chi lo vede più, è andato a finire nel fosso. Usare l'energia dell'acciaio che mantiene calore, deforma e si può usare per riscaldare l'ambiente. Avete mai provato a cuocere la pasta senza il gas? I grandi chef fanno così. Loro mettono l'acqua bollente, la pasta rinta e si cuoce da sola. Se vuoi la pasta fatta come la fanno giù, se invece la mangi come quei quattro fricandò, senza male me ne voglia Patrizio, voi polentoni che consumate un sacco di gas per fare una pasta che fa schifo uguale, scotta, invece me la mangiamo al dente e ben cotta comunque. Però questo va fuori fase poi con la mia nuova rubrica. Non so se lo sapete, dal prossimo mese ci sarà la rubrica I viaggi di Gulliver, l'associazione di volontaria di fianco al CERT Paide, e ci sarà da ridere, perché avremo tutti i casi, un attimo, casi umani più bizzarri, come l'uomo centenario, e il nostro amico Fabio Tripede, sarà lui il curatore. È un'associazione no profit, a noi ci piacciono le Onslus, e parleremo un po' di chi ha avuto problemi di disintossicazione. Ci sta Ode, ci sta Pietro, tutti i nostri amici. Io ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di poter curare questo evento e vi auguro una buona giornata in compagnia di Baby Radio. Thank you. baby.